9 in punto, la versione di Oscar. Oh, ed eccoci qua anche oggi in questo post Natale, martedì 27 dicembre 2011, verso la fine di quest'anno nel quale continuiamo ad aprire le nostre trasmissioni con tenacia e pervicacia dei Oscar Giannino con i Doors. Voi direte perché? Guardate che stamattina la tensione sullo spread riprende da un punto più alto da dove ci aveva lasciato, visto che attualmente la differenza sul decennale stanno intorno a 514 punti, questo mezz'ora fa. Adesso vediamo se l'andamento sarà analogo a quello delle ultime sedute pre-natalizie, in cui si iniziava alta la giornata per poi scendere. Poi, però intanto siamo a quota 514. Sapete che avendo dato una scorsa ai giornali di fine anno non ci sono grandi novità in questo post Natale rispetto a quelli pre-natalizie. Il governo, dopo aver dato la batosta fiscale nel suo primo decreto di emergenza, preannuncia una serie di provvedimenti, questa volta per la crescita, dei quali l'apertura del mercato alla concorrenza, visto il passo falso compiuto nel decreto dove in Parlamento i partiti che sostengono il governo Monti gli hanno dato una lezione su come si possa essere ingenui scrivendo un provvedimento senza sorvegliarlo tenacemente fino all'ultimo secondo notturno nelle commissioni parlamentari. Con un atto di volpina astuzia, i partiti e soprattutto il PDL, che su questo continua a smentire le sue promesse e premesse elettorali, il PDL ha sfilato un bel po' di liberalizzazioni. E allora a gennaio il governo Monti ha promesso che nella legge per la concorrenza, quella annuale, riprenderà in mano la questione. E allora abbiamo deciso in questi giorni di avvicinamento al mese di gennaio, mentre l'Italia è in recessione, mentre il Brasile apprendiamo supera valore il Regno Unito come sesta economia nel mondo e quindi si riscrive la gerarchia del mondo, e mentre l'Italia inizia a temere l'asta che c'è ovviamente giovedì se il Miss Spread non ci abbandona, ecco che decidiamo di affrontare capitolo per capitolo le promesse o temute liberalizzazioni per capire come esse si possano fare senza spaccare l'Italia nella consueta lotta tribale tra curva sud e curva nord, in cui prevale più l'interesse che si difende del merito. E quando dico il merito significa: esiste un modo per affrontare queste questioni parlando di contenuti prima di dividersi dicendo sono i farmacisti, sono gli avvocati, sono i commercialisti, sono i tassisti di cui parliamo oggi, i nemici pubblici numero uno dell'Italia? Oppure ci si siede, ci si confronta e si vede come fare? Naturalmente io non sto dicendo che la soluzione di questi problemi può venire solo dalla concertazione e dal concordare virgola per virgola i contenuti dei provvedimenti con i portatori di interessi, perché è ovvio che i portatori di interessi difendono il proprio interesse. Però forse esiste un modo di affrontare le questioni che abbassi la temperatura e ottenga l'effetto, altrimenti dagli anni di Bersani, delle famose lenzuolate, noi otteniamo solo dei proclami dietro i quali i governi pro tempore, i partiti, si fanno belli di essere i partiti portatori di grande liberalizzazione, tranne il fatto che in Parlamento si ribalta tutto perché all'ultimo secondo gli interessi prevalgono, si fanno sentire, bloccano l'Italia, tutto sparisce e svanisce, rimane l'effetto annuncio con la politica che poi dopo anni si divide, ma noi abbiamo fatto le lenzuolate, no, avete proposto le lenzuolate non sono state approvate, ma voi le avete abbassate, e come al solito la politica italiana diventa teatrino di rivendicazioni, invece che serietà a bassa voce di soluzioni. Noi siamo per le soluzioni, e allora oggi affrontiamo la seguente questione. C'è un modo per liberalizzare, aprire il mercato dei taxi senza espropriare i tassisti, visto che questa è la questione fondamentale. Chiunque abbia un po' di esperienza di come funziona il mercato oggi, è regolamentato per numero di licenze concesse dai comuni, regolamentato perché le tariffe sono amministrate, sa che la licenza a pagamento è una licenza a pagamento il cui ammortamento impegna per anni e anni i tassisti. Siamo a un livello di valore delle licenze in città come Milano, che è sicuramente il punto più elevato in Italia, che aveva toccato e oltrepassato i 190.000 euro dopo l'assegnazione a Milano dell'Expo 2015, adesso con la crisi è sceso di un po', ma il livello è quello. E quindi si tratta di spesso ex lavoratori dipendenti che hanno perso il posto, oppure anche tanti quadri di imprese, piccole imprese che hanno perso il posto, o commercianti che hanno chiuso l'esercizio, che negli ultimi anni vedono nell'acquisto di una licenza la maniera di impegnare i propri risparmi e a quel punto di doverli ammortizzare per anni, e di fronte all'idea che una licenza valga zero ovviamente diventano matti, perché ti dicono mettiamo mano alle pistole, si fa per dire, non mettiamo mano alle pistole. Occupatevi di altro, che non siamo noi i problemi numero uno del paese. Primo. Secondo, è vero o è falso che nelle città italiane il livello di disservizio non è assolutamente uguale a quello che si tocca in alcune città, tipo Roma per esempio, non si arrabbino i nostri ascoltatori romani, e che quindi forse la categoria paga il prezzo amaro di un problema di rappresentanza molto ruvida e mescolare soprattutto in una città italiana, cioè Roma? Faccio un nome e un cognome: Bittarelli, che è capo del 3570 da anni e con i suoi metodi muscolari non mi ha mai convinto, quindi immediatamente al punto. Credo che i suoi colleghi in tutta Italia pagano la ruvidezza di come i colleghi romani abbiano bloccato la città molte volte dicendo no a soluzioni che in altre città tipo Milano sono state invece concordate dai rappresentanti della categoria con i comuni. In ogni caso, aprendoci oggi a ciò che è avvenuto in Italia dal decreto Bersani in poi, molto poco, perché anche lì si trattò di fare un annuncio e poi marcia indietro perché in Parlamento prevalsero gli interessi. A fronte di come diversi paesi, dall'Irlanda all'Olanda alla Gran Bretagna, hanno negli anni normato questa questione, i criteri sono diversi. In realtà i paesi che hanno iperliberalizzato non sono poi tantissimi, ma l'effetto c'è stato e non è vero che è universalmente negativo. La nostra proposta di oggi è molto semplice, ora la faremo spiegare meglio, visto che c'è stato anche un recente, proprio in questi giorni, deposito parlamentare di una proposta che si rifà a questa tentativo di soluzione di un problema avanzato alcuni anni fa, e cioè quando ci fu il primo intervento della Bersani dall'Istituto Bruno Leoni, del quale sono senior fellow, uno dei pochissimi veri think tank italiani mercatisti e liberisti, non ci nascondiamo dietro un dito. Alcuni anni fa il Bruno Leoni, e trovate le tracce delle nostre proposte, dei nostri studi, dei nostri paper su questo argomento, la liberalizzazione dei taxi, come su tanti altri argomenti, lo trovate sul mio blog www.chicago-blog.it, ci è venuta la seguente idea: ma perché invece di continuare a passare anni nell'additare i tassisti come nemico pubblico numero uno, non affrontiamo il problema così, due punti, dando una licenza aggiuntiva ad ogni tassista che oggi ne abbia una, lasciandolo libero di bruciarla se vuole, utilizzarla trasformandosi in impresa se vuole o associandosi a terzi, e in questa maniera, unendo l'obiettivo elementare di estendere l'offerta al mercato da una parte e dall'altra di non espropriare o comunque creare un forte danno patrimoniale, che va distinto anno per anno di esercizio della licenza perché è più o meno lungo il periodo di ammortamento, a chi comunque negli ultimi anni fatica molto, questa è la verità, a ripagare i costi della licenza, visto che, perdonate, e ho concluso il mio postolotto iniziale, non possiamo commettere l'errore di credere che chi passa 10 ore sul taxi ogni giorno nelle città sia in condizione di reddito, per essere chiari, paragonabile a quelli di altre categorie che erigono barricate alle liberalizzazioni come adesso non si arrabbino loro, i farmacisti o come gli avvocati, eccetera, eccetera, eccetera, e senza anche qua voler generalizzare, perché ci sono anche gli avvocati giovani che stanno a studio per anni e anni a far fotocopie, purtroppo, visto che sono le vere vittime di un sistema in teoria aperto a tutti e in pratica con poca concorrenza. Ecco, ma di sicuro i tassisti non sono ai vertici delle categorie che inguattano chissà quanti soldi e non li dichiarano al fisco. Ma parliamoci chiaro, fanno una vita molto impegnativa in città in cui il traffico è spesso infernale e per di più si beccano gente che li insulta e loro hanno voglia di insultare a loro volta. Evitiamo questo nella trasmissione attuale. Abbiamo due esperti che ci guidano in questo percorso, su questa proposta, licenze gratis ai tassisti attuali, e gli ospiti sono l'onorevole Gianni Verdetti, che è un deputato dell'Alleanza per l'Italia, quindi stiamo parlando terzo polo per capirci, che ha depositato recentemente una proposta di legge esattamente ispirata a questa proposta dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno e grazie onorevole Vernetti. Buongiorno a lei. E abbiamo con noi il professor Andrea Boitani, che sentiamo spesso quando si parla di trasporti e non solo, e insegna economia politica alla Cattolica il Sacro Cuore a Milano. Buongiorno professor Boitani. Buongiorno. Allora, onorevole Vernetti, la sua proposta l'ha depositata come e perché? Ma intanto, come sempre, è corretto, come lei ha fatto, citare la fonte. Intanto no, io non penso che il problema numero uno delle liberalizzazioni in questo paese siano i taxi, ma certamente questo è uno dei tantissimi problemi. E anch'io sono convinto che questa manovra, io sostengo lealmente il governo Monti, ma sono anch'io convinto che questa prima fase della manovra sia stata, diciamo, eccessivamente con un aumento di pressione fiscale. Oggi bisogna veramente, attendiamo tutti una fase 2 nella quale ci siano, diciamo, una stagione di liberalizzazioni e vere misure per la crescita. In questo contesto, piccolissimo problema, la questione tax, come da lei ben descritta. Io ho ripreso la ricerca e la proposta dell'Istituto Bruno Leoni, peraltro proposta che alcuni colleghi del 2006 ne fecero già un emendamento alla cosiddetta lenzuolata al decreto Bersani sulla liberalizzazione, emendamento che poi non venne approvato. La proposta è semplice, non si vuole penalizzare una categoria, ma semplicemente si vuole aumentare l'offerta di servizi, permettere quindi di avere più taxi per le strade, permettere al tempo stesso di non penalizzare chi ha sborsato ingenti risorse per acquistare una licenza, ma con il raddoppio della licenza la può o cedere a titolo gratuito a un familiare, o associarsi, o assumere un dipendente, o venderla sul mercato, e quindi con i valori che il mercato stabilirà, e quindi comunque certamente remunerare una parte del suo investimento, perché di ciò si tratta, perché con questa regola che io ritengo assurda, questo mercato assolutamente drogato delle licenze dei taxi. E questo è un piccolo segnale, diciamo, verso una liberalizzazione più decisa, ma diciamo sarebbe una fase transitoria verso, per permettere poi una più ampia liberalizzazione. Professor Boitani, i paesi che hanno affrontato negli ultimi anni il tema della offerta di servizi con vetture pubbliche, e dovremo vedere poi, perché c'è anche una questione che riguarda i noleggi con conducente, che da sempre, ogni volta che si tocca il tema della liberalizzazione, lamentano il fatto che negli ultimi anni i tassisti sono riusciti a tutelarsi, mentre poi in realtà in Parlamento la lobby dei tassisti riesce a fare picchiare dai politici i noleggi con conducente. Ma i paesi che hanno diversamente affrontato, la Svezia, l'Olanda, l'Irlanda, l'Australia, la Nuova Zelanda, di solito vengono accomunati per le loro aperture più pro market rispetto a quelle italiane, perché c'è chi ha liberalizzato le tariffe, chi le ha differenziate per fasce orarie, ma comunque aprendo anche qui a una forte liberalizzazione come l'Olanda, chi ha levato ogni limite sulle ore operative di offerta del servizio, e anche qui siamo a cavallo tra Svezia e Olanda. Ma tutto questo di solito nel dibattito del nostro paese si liquida dicendo: chi ha liberalizzato ha aperto il servizio agli immigrati, che sono a bassissimo costo, che sono la manodopera ipersfruttata, a chi ne ha soldi a centinaia facendo grandi imprese. A quel punto la qualità si abbatte, la sicurezza pure, e il cliente non potrà dire a quel punto che non li abbiamo avvisati. Allora, questo è un po' il cliché verso chi ha liberalizzato, avendo l'idea dei taxi di New York, dei film e così via. Nella realtà, tra questo cliché e la realtà italiana, questa idea, secondo lei, che ha illustrato Vernetti, può essere una buona idea, perché sì o perché no? Allora, innanzitutto va detto che l'idea, come dire, risale molto indietro nel tempo. Mi dispiace per l'Istituto Bruno Leoni, ma corretto. Dire, non ha la primazia, no, assolutamente, che risale al compianto Franco Romani, esattamente. Quindi a molti anni fa. È stata ripresa anche recentemente, proprio la settimana scorsa, sulla voce.info dal mio amico e collega Michele Polo, e sono arrivati un mucchio di commenti. Buona parte di questi commenti dicevano esattamente quello che ha detto lei adesso, cioè che la liberalizzazione del settore provocherebbe maggiore insicurezza, eccetera. Francamente, diciamo, dalle statistiche ufficiali non risulta che in Olanda, in Svezia, in Australia, in Nuova Zelanda la gente muoia come le mosche, diciamo, andando in taxi, e quindi questi sembrerebbero essere allarmi, diciamo, non supportati da cifre. Quindi non credo francamente che l'argomento sia valido. In realtà l'opposizione che c'è in Italia è diciamo, un'opposizione che è legata alla difesa di una rendita di posizione. È vero che i tassisti fanno un mestiere duro, che hanno orari che possono essere anche molto sconvenienti, soprattutto quando lavorano la notte, molto presto la mattina. Tuttavia, diciamo, il reddito dei tassisti, considerato il livello di formazione professionale e di istruzione, quindi gli investimenti di istruzione che hanno fatto, relativamente scarso, è un reddito molto elevato. Che non è molto elevato in assoluto, sto dicendo che è molto elevato rispetto agli investimenti in istruzione che hanno fatto, alla qualificazione professionale che hanno, rispetto ad altre categorie che hanno fatto lo stesso tipo di investimenti in istruzione e hanno lo stesso tipo di formazione professionale. Quindi il problema è certamente la difesa di una rendita di posizione. Altrettanto è il problema di una difesa di un investimento che spesso hanno fatto per acquistare la licenza, e la licenza si acquista perché è diciamo, un bene scarso, perché ce ne sono in giro meno di quante diciamo, sarebbero licenze domandate dai potenziali tassisti. Per questa ragione la licenza hanno raggiunto valori che sono quelli che diceva lei all'inizio, sono un po' differenziati da città a città, ma sono quei valori lì. E la proposta diciamo, di Franco Romani, dell'Istituto Bruno Leoni, della Voce.info e via di seguito, è una proposta che è stata attuata in Irlanda. Non è una proposta, diciamo così, che è priva completamente di base, che nasce solo dalla puramente solo teorica. Esatto, è stata attuata. È stata attuata e ha avuto successo. Ha avuto successo perché di fronte alla liberalizzazione all'aumento del numero di licenze e alla liberalizzazione del servizio, il valore delle licenze a Dublino stava crollando. E quindi è stato fatto esattamente quello che diceva lei all'inizio, cioè regalare ad ogni tassista una licenza aggiuntiva, è quello che, diciamo, è anche nella proposta di legge che è stata menzionata poc'anzi. E la cosa ha funzionato, naturalmente deve essere accompagnata da una serie di cose, nel senso che bisogna tener conto anche delle differenze che esistono tra coloro che hanno acquistato la licenza molto tempo prima, hanno avuto modo di ammortizzarla percependo le rendite che sono associate a queste licenze per vari anni, e chi invece l'ha acquistata soltanto adesso e quindi non l'ha potuta ammortizzare. Quindi ci sono differenze anche all'interno del mondo dei tassisti e delle rendite che hanno potuto percepire. Di ciò andrebbe tenuto conto. Certo, il governo è stato molto molto ingenuo a proporre quello che ha proposto, diciamo, nella manovra Salvi Italia, o con un po' di fretta e diciamo, in modo francamente abborracciato. Su questo sono d'accordo, perché quando si pecca di ingenuità e di superficialità si finisce per aggravare un problema che è già, dice, da anni segnalato come grave, perché le questioni bisogna affrontarle tanto più quanto si sa che sono un po' laceranti, e quando già le corporazioni si sono battute con successo bisogna affrontarle sapendo che l'intervento che bisogna preparare dovrà essere decisivo, serio e a quel punto risolutivo, perché altrimenti si torna due passi indietro, per così dire, segnalando segnalo ai tanti che mi chiedono, ma è possibile al di là delle semplificazioni leggere qualcosa di complesso e strutturato per informarsi davvero sul tema, al di là dei molti articoli che trovate anche sulla voce.info, ha ragione il professor Boitani, non solo su Chicago Blog, negli diversi anni degli studiosi che hanno approfittato il tema, la cosa che ho letto io, questo era già l'anno scorso, l'autore Iovene nel 2008 uscì a cura del professor Christian Iaione, che insegna alla LUIS, è un testo che si chiama Regolazione del trasporto pubblico locale, bus e taxi alla fermata delle liberalizzazioni. Troverete lì esposte le misure, diciamo, dei tre blocchi di paesi che hanno gradi diversi di apertura del mercato, perché c'è chi, come ripeto, la Svezia ha adottato un regime concorrenziale praticamente totalmente deregolamentato, e come l'Olanda, che ha mantenuto solo il controllo dei massimali tariffari, e l'Irlanda, che a sua volta ha liberalizzato, come ricordava adesso il professor Boitani, però ha liberalizzato più che altro l'offerta di mercato, cioè il numero di taxi. Poi c'è un secondo blocco di paesi come il Regno Unito, il Belgio nelle Fiandre, perché il Belgio e Bruxelles è una regolamentazione opposta, però il Regno Unito, il Belgio nelle Fiandre, la Danimarca, loro hanno una regolamentazione un po' più flessibile della nostra, ma meno spinta delle liberalizzazioni di paesi come la Svezia e come l'Olanda. E poi infine invece c'è Germania, Belgio, Bruxelles, a differenza di Belgio Fiandre, Danimarca, che hanno un approccio ancora più regolamentato, e alla fine ci sono i paesi come il nostro che regolamentano più o meno tutto, cioè dalla tariffa all'offerta alle possibilità. Detto questo, ripeto, ci sono comuni e comuni che hanno saputo in Italia compiere comunque passi avanti diversi rispetto a quelli di altri comuni. Io ho un po' l'impressione che tutta la categoria in Italia paghi il prezzo del fatto che Roma, da questo punto di vista, per responsabilità dei sindaci di un colore come quello attuale, che non ha fatto eccezioni, ma come anche del centro-sinistra quando ci sono stati, per responsabilità di quei sindaci, la categoria muscolare blocca città, che solo a Roma, cioè, se è stata capace di fare così, è riuscita a far pagare il prezzo di questo problema irrisolto un po' a tutta la categoria a livello nazionale e un po' a tutti gli italiani, e soprattutto ai turisti. Questo è il punto, perché io, da testimone, devo dirlo, ciò che negli anni ho visto, per esempio nell'auto vigilanza della coda a Fiumicino, a cui i municipali, la polizia municipale non poteva avvicinarsi, e sapete perfettamente voi tassisti che siete in ascolto dei numerosi episodi in cui polizia municipale le ha prese di brutto perché i vostri, diciamo così, vigilanti alzavano le mani. A quello che ho visto più volte la notte all'aeroporto di Ciampino, dove sono rimasto anche più di una volta a piedi per difendere turisti stranieri di fronte a contrattazioni improbabilmente accettabili in un paese civile, ecco, cose simili, diciamo che, certo, non voglio generalizzare, ma mi è capitato raramente di vedere nelle altre parti del nostro paese, e forse insieme possiamo affrontare anche le questioni di civiltà e di adeguatezza del servizio a ciò che rappresenta uno dei primi biglietti da visita che l'Italia offre poi a chi arriva da fuori. Bene, ora ci fermiamo per la pubblicità e poi cominciamo con le telefonate. I nostri ospiti restano con noi, l'onorevole Vernetti e il professor Boitani. Allora, eccoci su questa proposta: regalare una licenza ai tassisti per liberalizzare il mercato. Cominciamo a vedere le prime reazioni degli ascoltatori. Margherita, che ci chiama dalla provincia di Milano. Prego, Margherita. Sì, buongiorno signor Giannini e i suoi ospiti. Niente, io sono una mamma di un ragazzo che ha preso la licenza 2 anni fa e l'ha pagata 180.000 euro. Ci siamo dovuto vendere un appartamentino, insomma, giù, va bene, per poter dare lavoro a mio figlio, perché è laureato e non si trovava lavoro, ha fatto la scuola per fare il tassista, sa parlare benissimo l'inglese. Qui il problema è degli abusivi. I vigili vedono gli abusivi, non dicono nulla. Le doppie guide stanno rubando un sacco di lavoro. Il lavoro è diminuito tanto a questi poveri tassisti. È inutile che loro toccano la categoria dei tassisti. Mio figlio fa dalle 9 alle 6 del mattino, fa la notte per non avere troppo traffico. Che sanno che sacrifici fanno i tassisti a questi signori che prendono 70.000 euro? Va bene, signora, lei è chiaro, lei dice no a qualunque cosa, perché io però una sua valutazione della proposta non l'ho sentita. Noi vogliamo sapere se questa proposta, chi fa questo mestiere, è considerabile come una proposta valutabile o meno. Dire no, signora, lo capisco, ma non potrò mai essere d'accordo. Roberto da Milano. Roberto, prego. Sì, buongiorno Giannino. Intanto volevo fare una chiosa al discorso che ha fatto l'onorevole prima, circa il fatto che noi abbiamo un reddito superiore rispetto ad altre persone con la stessa qualifica. Era il professor Boitani che faceva questa osservazione. È la conferma che si cerca di creare povertà invece che favorire la ricchezza, perché qui siamo all'affermazione che il denaro è lo sterco del diavolo. Comunque, fatta la chiosa, concordo perfettamente con lei che la causa di tutti i mali nasce da Roma. E su questo non c'è dubbio, è stata colpa loro, perché il problema taxi in Italia non ce n'è mai stato se non quando è scoppiato a Roma. Proprio perché si chiama trasporto pubblico locale, il servizio dovrebbe essere consegnato totalmente in mano alle regioni, perché le esigenze di Milano sono completamente diverse dalle esigenze di Roma, di Napoli, di Taranto, di Torino, di Brindisi. Ogni regione ha le sue specificità. Il problema della licenza gratis, una licenza gratis per ogni licenza posseduta, teoricamente potrebbe funzionare. Praticamente lei mi mette in pista dalla sera alla mattina il 50 e il 100% di macchine in più. Mi raddoppia esattamente l'offerta. Raddoppiando l'offerta mi dimezza esattamente quello che è l'incasso, forse anche meno della metà. Considerando che il parco clienti è costante e tende a diminuire invece che aumentare, i costi fissi sono sempre quelli. Cosa succede? Che per rientrare delle spese non devi fare altro che aumentare la tariffa, e questo va a discapito dell'utenza. L'unica cosa che è stata fatta a Milano, per esempio, quella delle doppie guide, poi sì, è stata fermata perché effettivamente non riuscivano né a starci dentro loro né a starci dentro anche gli altri, perché attendevano ad aumentare il numero delle macchine in circolazione. Quella è l'unica roba che si poteva fare in questo momento contingente dell'economia. Altre proposte sono assolutamente così, di fantasia, ma assolutamente destinate a non funzionare, sempre tenendo presente che con un taxi o con 10.000 taxi il costo chilometrico è sempre quello, cioè non cambia. 3 euro paga sulla mia macchina, 3 euro paga su un'altra macchina, non cambia nulla per l'utente. Non è come il salumiere che ti vende il prosciutto, uno di più, uno di meno. Se lei avesse 100.000 salumerie a Milano che vendono il prosciutto a 10 euro al chilo, che differenza ci sarebbe per l'utenza? Nessuna. Va bene, Roberto, anche lei dice qualunque aumento dell'offerta è antieconomico e insostenibile. Marco da Roma, sentiamo Marco da Roma. Buongiorno, buongiorno Oscar. Dunque, prima cosa direi che uno insomma si sente anche un pochino denigrato, soprattutto uno si offende, perché persone come me e tanti altri colleghi non sono affatto persone ignoranti, anzi abbiamo studiato, siamo arrivati addirittura vicini alla laurea, qualcuno l'ha anche presa e ha sentito prima la mamma di quel ragazzo. Facciamo questo lavoro perché abbiamo perso il precedente. Dunque, o siamo saliti sul taxi del papà o qualcuno purtroppo si è impegnato a casa. Questo, Marco, io testimonio il fatto che negli anni, tante volte ho incontrato anche io storie di questo tipo. Ma il professor Boitani non vi voleva insultare, ve lo garantisco, lo conosco adesso. Comunque, al di là di questo, veniamo al punto della proposta, che pensa Marco? Poco informate, che sarebbe meglio a volte girare, leggere, conoscere per poi poter parlare. Io non parlo mai di cose che non conosco, prima mi informo. Questa è la prima cosa. Poi il nostro lavoro, io parlo di Roma, di Milano, città principali, dove il lavoro ci distrugge, perché abbiamo un caos, la città è caotica. Ora non voglio sapere di chi sono le responsabilità, la città è caotica, nessuno rispetta corsi preferenziali, dunque il costo a chilometro sale, non per colpa ovviamente nostra, ma di servizi che non funzionano, dunque vigili urbani che non controllano e tutta una serie di circostanze. L'altro problema è, qui si parla di liberalizzare. Liberalizzare cosa? Siamo già liberi. No. Già siamo liberi. No, Marco, siamo soltanto vincolati ad un tasso. Siete vincolati di numero, siete vincolati nelle tariffe. È un mercato iperregolamentato, non mi può dire che è un mercato liberalizzato. E non c'è, voglio dire, non è che dobbiamo litigare su questo. È un mercato iperregolamentato. La questione è, si possono liberalizzare le tariffe, si possono liberalizzare l'offerta in termini di automobili, oppure sulle stesse automobili quanti ci possono lavorare, si possono liberalizzare in tanti modi, visto che è tutto regolamentato. Credo che dire no a tutto ci riporta allo scontro muro contro muro. Tranne il fatto poi, ripeto, che ogni città ha un problema diverso, io sono perché i comuni poi entro norme generali di apertura del mercato stabilendo quali, tra tariffe, numero di vetture, modalità di esercizio su stessa vettura e possibilità a apertura di imprese eccetera eccetera, ma su qualcuna di queste cose in maniera distinta da città a città non mi può dire che il mercato è già libero, perché non è così. È andato giù la telefonata. Ah, questo mi dispiace, perché io non volevo levarle la voce, assolutamente. Se prova a richiamare, vedrà che la ricolleghiamo. Luca da Genova. Sì, buongiorno. Io chiamo intanto a nome di tanti cittadini italiani che credono che questo problema sia un pochino un fumo, no? Un fumo che in questo momento oggettivamente di crisi che si percepisce, non certo. So se... vero o presunta, si sta facendo questo fumo. No, beh, certo, rispetto a ciò che serve davvero per crescere siamo tutti d'accordo, è solo perché siccome è un classico delle liberalizzazioni parlarne, abbiamo iniziato di qua, ma ha ragione. Si parla delle farmacie, vabbè, ecco, comunque questa è una premessa, no, non c'entra. Ecco, purtroppo l'introito del trasporto pubblico locale è fatto molto dei contributi, diciamo, del trasporto pubblico, è fatto molto dei contributi che lo Stato dà, no? Diciamo, perché se no con i biglietti il trasporto non può stare in piedi. Ecco, e questo per dire che quando si parla di liberalizzazione ho paura che si stia parlando di questo semplicemente perché, dato che i trasporti pubblici non staranno più in piedi nei prossimi anni, si sta vedendo a Genova, ecco, a Genova le corse, tanto per dire, di autobus in città, anche importanti, alla sera sono passati da 10 minuti di differenza da una corsa all'altra a 25, ecco. E quindi, voglio dire, i cittadini si dovranno arrangiare, ecco, si dovranno arrangiare, dovranno avere un'alternativa, se la gestiranno loro, se la gestirà chi gliela offre, ecco. Però questo vuol dire che si sta deregolamentando tutta una situazione pubblica. Luca, ho capito l'osservazione, ma non è che si sta deregolamentando. Luca, le aziende pubbliche sono per più dei 4/5 delle migliaia che ce ne sono in Italia di trasporto inefficienti, non è che si sta deregolamentando, sono inefficienti perché perdono soldi, perché sono in mano a trombati della politica, a clientele, perché hanno consigli di amministrazione pachidermici. La questione che molti di voi affrontano, come dice, lo Stato taglia. No, lo Stato è ladro, offre promesse di servizi che non è in grado di mantenere, e per questo che bisogna restringerne il perimetro, e rimangono, devono rimanere poi servizi pubblici, ma pubblici significa che siano organizzati secondo principi pubblicamente stabiliti e invigilati, magari concessi tramite regolare gara e ferreamente controllati che vengano rispettati da chi vince il bando di gara, ma non è affatto detto che il servizio pubblico non cadete nella trappola dei politici che vogliono solo soldi per continuare a fare quello che hanno fatto da decenni, che il servizio pubblico sia pubblico perché gestito da dipendenti pubblici, da società pubbliche, con società sottocapitalizzate che paghiamo poi per dover ricapitalizzare e per dover fronteggiare i loro disavanzi di conto economico con i denari nostri e con le aliquote aggiuntive. È possibile che questa roba non vi sia chiara? Perdonate se ve la faccio notare con un po' di passione, e poi è legittimo pensare che invece ciò che è pubblico deve essere tutto fatto con denaro pubblico e dipendenti pubblici. Però la mia opinione è che la debacle generale dico, a grande maggioranza dei servizi del trasporto pubblico locale identificano un problema di inefficienza, di malcostume, di corruzione della politica a livello amministrativo, non solo centrale, a questo punto stiamo parlando della politica locale in Italia. E non è che vi sono una prova di efficienza del pubblico e il cattivo governo che vuole tagliare. Qui il problema è ridare mano a un principio organizzativo di ciò che è pubblico nel nostro paese, ma che non vi condanni a difendere ciò che è inefficiente e clientelare. Sentiamo come la pensa Lorenzo da Roma. Buongiorno dottor Giannino. Allora, relativamente a quella che è l'educazione media dei tassisti, dobbiamo ammettere che sicuramente quelli che stanno sopra gli over 50 sono un po' carenti, ma tutti quanti i giovani sono tutti quanti diplomati, e almeno uno su due. L'osservazione di Boitani vedo che va per la maggiore, va bene, ma nel punto, nel merito, come la penso? Io parlo inglese fluentemente. Relativamente a quello che è la elargizione di licenze che farebbe raddoppiare il numero di licenze di taxi, Io devo dire che in confronto, perché forse dall'estero impariamo molte più cose rispetto a quello che abbiamo fatto e sappiamo fare noi, sicuramente dobbiamo limitare il trasporto pubblico, il trasporto privato, mi scusi, nel centro storico di Roma. Le faccio presente che il nostro sindaco Alemanno non è riuscito a combattere la lobby dei negozi, dei negozianti del centro, i grandi negozianti, parlo di Viale Condotti, anche se lui aveva promesso che ad aprile scorso avrebbe bloccato le vie del centro. Da sempre i negozianti nei centri storici, quando si tratta di provvedimenti radicali di limitazione al traffico privato, dicono che scendono gli acquisti e che in un momento così duro come questo è ancora peggio. Questo è il problema dei grandi centri storici, a Roma in particolare. Ha ragione, anche a Roma secondo me il sindaco dovrebbe avere poteri, non dico di guerra o quasi, ma perché nel centro storico non solo le auto private, compresi parte dei residenti, larghissima parte dei residenti, perché tanto altrimenti non si risolve il problema, ma lo scandalosamente elevato numero di titolari di licenze, di permessi di accesso per vetture pubbliche andrebbe drasticamente limitato, perché è dettato dalla pianta urbanistica della vecchia città medievale radiale. Questa è la mia opinione, ma prego, continui. Le posso dire poi, a supporto di quello che le stavo dicendo, che questo per esperienza, le faccio un esempio: ad agosto i tassisti incassano in molti giorni del mese di agosto 40 euro in media, quindi a supporto del fatto che per raddoppiare le licenze si può fare, ma solo ed unicamente restringendo quello che è il range di utilizzo del taxi, nel senso non ci può essere un picco massimo e un picco minimo così distanti. Altrimenti ovviamente il tassista non sa che cosa fare, è inutile andare a lavorare. Questo non succede soltanto ad agosto, ma succede anche nei mesi invernali. Quindi, come dire, la regolamentazione si può fare, ma studiando esattamente quello che è poi quelle che sono poi le conseguenze. Le dirò di più: tutte le lamentele relative ai costi che si innalzano per fare questo tipo di mestiere sono dovuti anche a leggi regionali, se non nazionali, relativamente all'utilizzo di carburanti puliti. A Milano utilizzano moltissimo le Prius, le quali hanno avuto uno sconto molto forte, per quello che ne so io. Lì c'era un incentivo della regione che arrivava fino a quasi 5.000 euro per vettore. Infatti la differenza si è vista, perché c'è stata una riqualificazione dal punto di vista della norma energetica del parco circolante, che Roma se la sogna, tanto per cambiare, perché se uno paragona, perdonate, lo dico da utente, la vita media del parco circolante romano a quello milanese, insomma, voi mi potrete dire che naturalmente questa è un'ulteriore conferma che il tassista romano stenta molto. D'accordo, non so se sia questo, ma intanto è evidente. Rapidissimamente, Marco da Roma, che ci aveva richiamato perché era caduta la linea, ma io l'avevo interrotto. Poi andiamo alle segnalazioni sul traffico e poi sì, le osservazioni conclusive dell'onorevole Vernetti e del professor Boitani. Allora, Marco, prego, l'avevo interrotto. Eccomi, Oscar. Sì, dunque è caduta la linea, purtroppo. Semplicemente per dire, sì, Lorenzo, il collega ha appena accennato alle cose principali. A Roma il parco macchine è pessimo, perché ovviamente l'utile che ne esce fuori è dimostrazione del fatto che non si possono comprare macchine più grandi. Noi abbiamo 90 euro di spese al giorno, non abbiamo un centesimo di contributo, e questo la gente non lo sa, e purtroppo non lo sanno neanche i politici, quelli che ci odiano tanto, non lo sanno neanche i giornalisti che ci odiano. Dunque io dico, ragazzi, prima di parlare, informarsi bene. Allora, se date a noi modo di lavorare meglio, si potrà sicuramente fare un servizio migliore. Se portate la categoria alla fame, potrete soltanto ottenere ovviamente una risposta non adeguata, violenta, nervosa, e non si va da nessuna parte. Bisogna dare incentivi, consentire ai tassisti di guadagnare un po' di più, perché è un lavoro stressante, è un lavoro altamente usurante, questo non viene mai detto, è un lavoro altamente usurante. Dunque danni gravissimi, prostata, tumori, polmoni, spine dorsale rovinate, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Liberalizzazione: a Dublino ci sono stati 9 suicidi in 6 mesi, 11.000 taxi, 9 suicidi in 6 mesi, andate a leggere, cioè, è chiaro, è evidente che una liberalizzazione selvaggia porta soltanto a un disservizio ed un elevamento del prezzo. Amsterdam, primo scatto 7,50 euro, e quindi lì c'è la liberalizzazione, primo chilometro 2,20 euro, mentre da noi siamo a 0,94. Alt, la fermo, Marco, qui nessuno sta parlando di cose selvagge, è da anni che non si fa un passo avanti. stiamo parlando di confrontarci sulle proposte esattamente come dice lei, e quindi dedicando ore e tempo con l'idea però che non sia già realizzato l'Eden, perché siccome non è realizzato l'Eden e non crediamo agli Eden interna, noi imperfettisti, però dobbiamo in qualche maniera affrontare la questione. Allora, noi adesso abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi le reazioni a tutte le vostre telefonate di Vernetti. Boitani, riusciamo ancora a fare due rapidissime telefonate prima di dare poi la conclusione, perché chiudiamo al 58 a Vernetti e Boitani. Ci abbiamo ancora due telefonate subito dopo. 9 in punto, la versione di Oscar. E mentre riparte, come ritualmente in conclusione di End of Doors, come in apertura, Maurizio da Milano. Maurizio, prego. Buongiorno Giannino, buongiorno all'ospite. Volevo solo puntualizzare una cosa. Nel 2006 la famosa prima lenzuolata dell'onorevole Bersani aveva dato ai comuni delle possibilità di ampliare il servizio e, essendo tassista di Milano, parlo per Milano, a Milano è stata messa in campo la famosa seconda guida, cioè sì. 16 ore di servizio al posto. Ne ho dato 10. Atto all'inizio, anche secondo pardon, me. Io non no, no, no, ne ho dato atto all'inizio, infatti ho detto che il problema secondo me è più a Roma, perché a Milano secondo me la cosa ha portato a risultati. Cioè, ha portato a risultati, tra l'altro però il risultato purtroppo dico, e dico purtroppo, questo sì. Ovviamente, è che queste seconde guide stanno andando pian pianino a morire, tra virgolette. E lascio immaginare il perché. No, infatti qui c'è perché una cosa. Lavoro è quello che perché è, il lavoro è quello riesce che riesce a starci dentro, quindi mi dispiace non aver seguito la no si figuri, ma ha fatto bene per notificare. Grazie Maurizio. Grazie. Ancora Francesco che ci chiama da Roma, credo. Francesco Artusa, mi dicono, prego. No, da Milano. Da Milano, da Milano, prego, buongiorno. Io ho la fortuna di rappresentare, tra virgolette, il noleggio con conducente. Faccio solo una riflessione su quanto ho detto all'inizio, cioè la politica che poi si è occupata soprattutto di martellare l'unica concorrenza che dovrebbe, insomma, per legge che è preposta a fare la concorrenza ai taxi. E dico solo, lei ha parlato dei poteri di guerra di Alemanno, no, per favore, di quel sindaco, no, perché quello che si vanta di aver fatto, insomma, la norma. Cioè, giusto per spiegare agli ascoltatori una cosa sola, se un noleggio con conducente scarica Giannini in un aeroporto alle 9, non può caricare Milan alle 9 e mezza nello stesso aeroporto, perché c'è una legge che nessuno è in grado di abrogare, pur essendo stata definita incostituzionale. Per cui, insomma, anche questo governo, quando ha fatto quella timida liberalizzazione, quando ha fatto l'esclusione dei taxi e degli NCC, l'ha fatta su singola richiesta dei taxi, mentre noi, ma magari, cioè, voglio dire, anche di questo ho dato atto all'inizio, che è il mio stesso bilancio secondo me, però naturalmente i tassisti su questo insorgono perché vi vedono come impropri concorrenti, invece i concorrenti non sono impropri, sono concorrenti, il servizio è diverso, perché poi è dedicato a una fascia di pubblico che chiede un servizio diverso, paga di più, eccetera eccetera. Ecco, il male per tutti secondo me è l'abusivismo, quello fatto senza regole, senza requisiti, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma voi siete disponibili a sedervi a un tavolo e ragionare? Sì. Assolutamente sì, da parte nostra sì. Grazie allora anche a Francesco Artusa. Sentiamo le osservazioni finali. Prima l'onorevole Vernetti, lo sapeva, non credo che scopra nessuna novità. La categoria dice le cose vanno male, ma che volete aumentare l'offerta? Sì, non che valga come statistica, però il fatto che quasi nessuno di coloro che mi hanno telefonato sia intervenuto nel merito della proposta mi fa pensare che sia una buona proposta, alla quale è difficile controdedurre con virulenza e con radicalità, perché in fondo io ritengo che questa proposta che ho depositato e che ha avuto quella genesi che si ricordava riesca, a mio parere, in una fase transitoria ad aprire un po' il mercato, a raddoppiare l'offerta, a remunerare chi è stato costretto a fare un investimento drogato, tra virgolette, perché quello non è un valore reale, no? E quindi io sono convinto che sia, spero che il governo, nel pacchetto liberalizzazione che per fine gennaio dovrebbe giungere, metta mano anche alla liberalizzazione dei taxi adottando questa proposta. Quindi io sono abbastanza, direi, moderatamente ottimista. Ciò detto, io penso che il lavoro da fare in questo paese sia veramente molto. Sì, no, beh, certo. Nessuno pensa che questa sia lo sbocco della bassa produttività italiana. Professor Boitani, lei che dice? Perché ha sentito che, ovviamente, il colpo di spatola che ha fatto rispetto alla parità di formazione di capitale umano è quello che ha fatto scattare le molle. Però, nel merito, lei che dice? Ma guardi, naturalmente mi scuso con ogni singolo tassista che si sia sentito ferito, ma ovviamente il mio discorso si riferisce semplicemente a una media e credo che sotto questo profilo, diciamo, sia difficilmente contestabile. Ma innanzitutto la cosa che va chiarita è questa: molti tassisti dicono ma che cosa serve aumentare le licenze se le tariffe rimangono invariate? Ma è ovvio che le tariffe non devono rimanere invariate. È ovvio che in tutti i contesti in cui si aumenta l'offerta le tariffe devono essere libere di scendere, non libere di salire, ma libere di scendere. Cioè i comuni dovrebbero preoccuparsi di fissare delle tariffe massime alle quali i tassisti, pubblicizzandole adeguatamente, come appunto avviene anche in Olanda, sulla macchina, possono praticare degli sconti. Cioè, possono dire: io rispetto alla tariffa massima applico uno sconto del 10, del 15, del 20%, mettendo un cartello agganciato alla carrozzeria della macchina. In questo modo la clientela sarebbe informata delle possibilità, diciamo, che il mercato offre. È chiaro che viceversa, a tariffe invariate il provvedimento non sarebbe particolarmente utile, se non a far, diciamo, ridurre il giro d'affari dei tassisti. È chiaro che con tariffe più basse, per ottenere lo stesso reddito, i tassisti dovrebbero lavorare di più, ma questo appunto è l'incremento di produttività che si richiede a tutta l'economia. Esatto. non solo ai tassisti. Professor Boitani, su questo c'è una responsabilità però che dobbiamo tutti quanti, che abbiamo presente questo dato elementare che ha detto, ripetere incessantemente, che la produttività significa per gli italiani lavorare di più. E siccome la reazione è negativa, è meglio, ma lavorare di più è meglio, è una delle voci necessarie di ciò che dobbiamo fare, non perché è il sacrificio, perché è giusto, perché ne viene il meglio per tutti. Mi scusi se l'ho interrotto. No, sono d'accordo su questo punto, si tratta obiettivamente di lavorare di più e meglio, e naturalmente l'esempio dovrebbe arrivare dalla pubblica amministrazione, dalle scuole, dalle università, dagli ospedali e ovviamente anche dall'industria privata e dai servizi che vengono forniti individualmente, come quello dei taxi. Dopodiché sono perfettamente d'accordo con quanto ha scritto Massimo Mucchetti recentemente sul Corriere della Sera, e cioè che certamente quello dei taxi è un problema, certamente quello delle farmacie è un problema, esistono anche tanti altri problemi seri di liberalizzazione, parlo per esempio delle ferrovie regionali, parlo dei servizi di trasporto pubblico locale, per occuparmi di cose di cui sono a conoscenza diretta, ma ce ne sono numerosi altri, a cominciare dal settore dell'energia, dove ci sono forti poteri di monopolio, forti rendite, che possono essere rendite che si manifestano in profitti o rendite che si manifestano, come diceva John Hicks, in vita tranquilla. In vita tranquilla, e su questo io la devo fermare, e il professor Boitani ha ragione, ci sono settori cui impatto è enormemente più forte di quello di cui abbiamo parlato oggi. Aggiungo l'indice di concorrenza, per esempio provinciale su provinciale, per l'offerta di credito per le banche, una roba che dal mio punto di vista tecnicamente non sta in piedi da molti decenni, quindi le banche, il sistema finanziario, non è che abbiano lo stesso impatto del taxi, ce l'hanno uno incommensurabilmente più forte. Abbiamo finito la puntata, continueremo a parlarne, grazie a Vernetti, grazie a Boitani, grazie a voi tassisti, appuntamento domani, linea al giornale radio.